da quello, da entrare dentro quei canti e da entrarci sia col corpo che con la voce, che con i movimenti, con le emozioni, quindi siamo partiti proprio da quello. Diciamo che è una fattoria dove gli animali che vediamo in scena sono proprio degli schiavi, sono sporchi di terra, di fango, sono brutti, sono anche in postura animale, ma l'inizio dello spettacolo li vede semplicemente come dei condannati ai lavori forzati. Questa è stata la base del lavoro interpretativo. Dopo Roma continuerà il suo percorso internazionale e in Italia? Sì, è in progetto ovviamente una circuitazione italiana, questa è una vetrina promozionale, quella del Cometa Off, in realtà sarebbe la seconda tappa, perché abbiamo fatto un'anteprima al Teatro India a dicembre, dove lo spettacolo era al 90%, ma lo volevamo presentare anche alla stampa, al pubblico, è andata molto bene, quindi adesso c'è la forma definitiva al Cometa Off, che il pubblico è invitato insomma a venire a vedere, e poi ci concentreremo sull'Italia, dato che all'estero diciamo abbiamo fatto un percorso al contrario, siamo stati prima all'estero e poi ci concentriamo sull'Italia, ovviamente vi faremo anche sapere, insomma vi daremo aggiornati su questo, adesso un po' per scaramanzia non dico, va, diciamo così. In questo senso ci lasci tutti i riferimenti internet per maggiori informazioni? Assolutamente, noi siamo su Facebook, su Compagnia Sofia Amendolea, e una cosa che ho dimenticato di dire è che il cast è completamente composto da attori professionisti provenienti dall'Accademia Sofia Amendolea di Roma, cioè loro in comune hanno che hanno studiato tutti con diciamo la stessa provenienza didattica, anche se sono magari di annate diverse. E poi c'è il nostro sito accademiateatraledirom.com, dove lì c'è la pagina dedicata proprio alla compagnia Sofia Amendolea, quindi lì potete trovare tutti i dettagli e i riferimenti. Fattoria Liberi di essere schiavi a Roma al Cometa Off dal 15 al 19 gennaio 2020. Un saluto e un ringraziamento all'autore e regista Paolo Alessandri. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, viva il lupo, ciao Federico. Con Anna Piscopo, coautrice e attrice dello spettacolo Vai a rubare a San Nicola, che debutta a Roma al Teatro Tordinona dal 15 al 19 gennaio 2020. Anna, ben trovata. Ciao, ciao a tutti. Buon anno soprattutto. Auguri. Ci racconti di questo lavoro? Sì, Vai a rubare a San Nicola, diciamo, è una riscrittura di una storia tradizionale barese sul furto delle ossa di San Nicola, perché come sapete San Nicola è il protettore di Bari e secondo la, diciamo, la tradizione che si porta avanti nella città e che è riconosciuta anche dalla Chiesa, le ossa di San Nicola furono rubate da una nave di marinai baresi finanziata, diciamo, dai commercianti di Bari, che volevano ovviamente rendere Bari luogo di pellegrinaggio. Nella nostra storia però a rubare le ossa non sono dei marinari, ma una ragazza di Bari Vecchia che si è innamorata perdutamente di un marinaio, non vi dico altro. È uno spettacolo comico, però ovviamente anche, diciamo, noi ci occupiamo quasi sempre di tragicommedia, quindi ha delle punte drammatiche, ma in generale è uno spettacolo comico divertente. Come nasce l'idea? Mi è stata una mia idea, nata casualmente, sicuro, non so come mi è venuta in mente, però a questo punto ho detto, però sarebbe bello raccontare questa storia. Non si sa dire, però è stata proprio un'ispirazione, a differenza di, diciamo, di Mangia, che è lo spettacolo precedente. In questo caso l'ispirazione è stata veramente un'ispirazione improvvisa, senza, non lo so, sicuramente io sono barese, quindi è un tema, quello, diciamo, di San Nicola per me è molto caro, che ho sempre in mente, che ho sempre avuto in mente, però l'idea di questa storia non so come sia nata, non vi so rispondere. Come avete pensato la messa in scena? La messa in scena è veramente molto particolare, credo sia uno dei punti più interessanti, diciamo, dello spettacolo, perché abbiamo realizzato una vera e propria, diciamo, fiaba dark, in qualche modo, ha molta atmosfera, sono costumi d'epoca, la storia reale ambientata nel Medioevo. Abbiamo ricreato un'atmosfera veramente dark. La città di Bari è rappresentata da delle barchette di carta, c'è una tinozza antica che fa da mare e dei pupazzi di legno per gli altri personaggi. Cioè, la cosa penso più particolare e più interessante da vedere, proprio la messa in scena. E anche questa, come posso dire, questa riscrittura dark di una storia appartenente a una città tutto sommato invece solare rispetto a come la portiamo noi in scena. Ecco, rispetto a questo approccio dark, su cosa avete voluto mettere l'accento? Sicuramente l'accento è messo moltissimo sulla condizione della donna, ovviamente è una storia antica, quindi parla anche di una condizione si presume passata della donna, e sul rifiuto che lei vive, no, da parte di quest'uomo, proprio partendo da questi sentimenti di rifiuto, di rivincita, di vendetta, di emarginazione anche che ha questa ragazza, anche per il fatto che rimane incinta senza avere un compagno, quindi da disonorata, è proprio da quello che veniva l'ispirazione in qualche modo di rendere dark poi l'atmosfera, perché per quanto lei sia divertente, eccetera, eccetera, eccetera, per quanto viva anche delle situazioni delle volte divertenti e assurde, in realtà la condizione emotiva è una condizione di distrazione, no? Perché lei si deve salvare la vita, ma salvare la vita. Sappiamo che nell'antichità, almeno sud Italia io ne sono certa, quando eri disonorata venivi bruciata dalla tua famiglia addirittura, no? Mm-hmm. Ed è proprio, lei ha questa minaccia incombente, per questo si deve salvare, e nel salvataggio di se stessa finisce per compiere involontariamente un atto eroico. Poi un'altra cosa interessante che riguarda anche l'atmosfera è che ovviamente c'è il viaggio proprio da Bari a Mira, quindi c'è tantissima atmosfera levantina, c'è questo passaggio ad Oriente, no? C'è tanta commissione anche a livello musicale, perché abbiamo composto delle musiche sul testo, tra appunto l'Occidente e l'Oriente, Bari è la porta dell'Oriente, quindi c'è anche questo. Dopo questo debutto romano, che succederà con lo spettacolo? Allora, lo spettacolo, diciamo che questo debutto romano è una sorta di anteprima, perché il debutto ufficiale ovviamente sarà a Bari per i teatri di Bari, per il Teatro Pubblico Pugliese. Dopodiché, insomma, vediamo, speriamo di venderlo moltissimo, di girare, per ora abbiamo queste come cose certe, siamo anche nel cartellone di Ostia, per cui a maggio, diciamo, replicheremo a Ostia. Poi, insomma, vedremo il futuro dello spettacolo. Ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più? Ok, sì, allora, innanzitutto per diciamo fare per informarsi diciamo maggiormente sullo spettacolo lo troverete sicuramente su internet, ci sono già degli articoli, Vai a rubare a San Nicola di Anna Piscopo e Lamberto Carrozzi con Anna Piscopo, l'ho trovata anche su Facebook, potete cercare anche la mia pagina che è Anna Piscopo Official. Lo spettacolo debutterà dal 15 qui a Roma, dal 15 al 19 gennaio 2020 al Teatro Sordinona, in via degli Acquasparta 16. Per prenotare basta chiamare il numero 327 26 179 74, o scrivere anche alla mia pagina se volete. E allora un saluto e un ringraziamento alla coautrice e attrice Anna Piscopo, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, vive il lupo, ciao. Con l'autrice e attrice Fiamma Negri per parlare del progetto di crowdfunding per lo spettacolo Overshoot. Fiamma, ben trovata. Ciao, finalmente ci risentiamo. Finalmente ci si risente. Allora, raccontaci un po' di questo progetto. Sì, allora, questo progetto è il proseguimento di quello precedente, che è il Bologna, di cui se non sbaglio abbiamo parlato anche con te, che ha girato parecchio in Italia ed era nato dalla voglia di raccontare i perché delle migrazioni, quindi di andare prima del racconto si fa quando ormai è troppo tardi, capire cosa succede prima. In questo raccontare il prima abbiamo incontrato tanti altri temi che non siamo riusciti a toccare e allora abbiamo detto non può finire qui, e abbiamo deciso di fare questo stanzo e poi altri due se tutto va bene, ci concentreremo su positivo e sui cambiamenti climatici. Naturalmente noi abbiamo sempre uno sguardo un po' bimbo, parliamo di cose serie, ci informiamo molto, ma poi abbiamo anche una parte un po' più ironica, insomma, che ci aiuta. E questo nasce come uno spettacolo sicuramente teatrale, ma anche come uno spettacolo di narrazione che si può fare ovunque, perché l'idea e la cosa che a noi interessa comunque è che queste storie, queste narrazioni arrivino dovunque, con l'idea che deve essere il teatro ad andare dalle persone, qualche volta non il teatro e le persone a venire al teatro. Se succedono entrambe le cose è decisamente meglio. E quindi ecco, è partita la campagna di crowdfunding, perché comunque noi siamo una compagnia indipendente, perché i progetti poi nascono e non hanno mai gli stessi tempi delle burocrazie e dei bandi. Allora abbiamo detto basta, partiamo, e devo dire sta partendo bene per adesso. A quali materiali avete pensato di attingere per la preparazione? Allora, senti, noi collaboriamo già da tempo con Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo, che è una pubblicazione molto interessante, perché sì, parla di guerre, ma non solo, quindi parla di mille perché. Siccome dentro ci sono tantissimi giornalisti che parlano di, appunto, o di guerre o di problematiche varie legate appunto alle guerre, e quindi lì è una delle prime fonti. E poi stiamo contattando altre società o associazioni che lavorano sul tema, anche con alcuni amici che lavorano al World Fund, e quindi insomma le fonti sono tante, e poi cerchiamo disperatamente storie, cioè ci interessa partire dalle persone e dalle persone poi si parte a raccontare, ad approfondire, però è quello che facciamo un po' sempre, no? Partiamo da una storia di qualcuno che magari abbiamo conosciuto, abbiamo incrociato, e poi proseguiamo approfondendo. Quindi narrazione e storie di persone, che è un po' la nostra cifra stilistica, insomma. Su quali elementi volete centrarlo? L'idea è quella di andare un po'. Perché sai, si parla sempre di consumo consapevole, no? Ma e questo va bene, ne parliamo molto. Ma in realtà la cosa importante è capire come quello che è il nostro futuro e il nostro presente, cioè il cibo, quello che ci permette di sopravvivere, può diventare una fonte di inquinamento e di sfruttamento tanto quanto una fabbrica. E quindi certamente si tratta di capire il consumo consapevole, ma si tratta di capire anche che cosa succede, cosa muove, come conseguenze anche, quindi dalle coltivazioni intensive della soia, che di quella di cui si parla, ma poi c'è un problema con i salmoni, c'è il problema dei beni di lusso, che abbiamo trovato questa storia di questo tè molto prezioso che viene preso al mattino, quindi colto al mattino da degli operai specializzatissimi che lo tagliano con le forbicine d'oro, e poi però finisce in una teiera che costa 500 euro, non la teiera, il tè che c'è dentro. E quindi diciamo, cerchiamo di raccontare un po' tutta la filiera, no? Naturalmente poi si fa teatro, si fa racconto, quindi si parlerà anche di emozioni, naturalmente, che sono quelle che però forse ci aiutano ad avvicinare le persone più dei dati nudi e crudi, che qualcosina daremo, ma insomma senza esagerare. Bisogna andare oltre, come dire, anche il ragionamento, che è importante, ma se le persone non vivono quello che tu racconti sulla propria pelle, sembra sempre che succeda in un posto lontano, appunto a casa loro, a casa di altri, invece casa loro è ormai pure casa nostra, basta vedere cosa succede in Australia, cosa succede qua, le alluvioni e tutto il resto. Quindi però sembra, anche quando succede qua, no, sembra che succeda a un altro, invece no, succede pure a te. Se non altro per un po' di sano egoismo, dovresti rendertene conto. Fiamma, in conclusione ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più? Certamente, allora noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama Overshoot, e quindi lì ci sono tutti gli aggiornamenti, poi c'è la nostra compagnia, che è Fabbrica dei Racconti della Memoria Farm, che ha un sito, e da lì poi si arriva a Produzioni dal Basso. Stiamo facendo il crowdfunding su produzione dal basso, e quindi ci potete trovare lì. Però diciamo, partendo dalla pagina Facebook, poi ci sono tutti gli aggiornamenti, poi ci sono tutti i ringraziamenti a chi dona, perché questo dobbiamo dirlo, no? Perché sennò sembra che facciamo beneficenza, invece è un crowdfunding che serve a noi a lavorare, quindi andare in giro

però con una costante lettura attenta e partecipata del presente. E quindi noi ci interroghiamo, raccontiamo fatti, riflettiamo continuamente su questioni sociali e politiche. Quindi è un teatro politico il Teatro Popolare di Verona, nasce con questa esigenza, cioè il politico nel senso trasformativo, no? Del termine, quindi trasformativo sia a livello individuale, quindi come capacità di mettersi in gioco costantemente, ma soprattutto trasformativo a livello collettivo, perché quello che si agisce all'interno del nostro laboratorio, del laboratorio che si tiene due volte al mese, ogni altra domenica, è quello di proporre, no, delle azioni trasformative che poi abbiano un effetto, un'efficacia anche nei contesti che viviamo quotidianamente. Quindi una presa di coscienza attraverso il teatro che continua a problematizzare, quindi anche dopo nella vita quotidiana e il presente, rendendo responsabili non solo attraverso appunto la sperimentazione che si fa lì, ma anche fuori, quindi negli altri spazi della città, in piazza, nelle realtà cittadine di impegno sociale presenti a Verona. Così, cioè, ad esempio, hai presente, no, il movimento delle donne cilene che ha portato in tutte le piazze nazionali la performance Il Violadora Eres Tu, promossa da Non Una Di Meno. Noi come Teatro Popolare abbiamo partecipato alla grande manifestazione di Non Una Di Meno della primavera scorsa. Quindi è un teatro che riflette, che tiene costantemente presente in una grande lettura responsabile e attenta quello che avviene. Questo teatro, cioè il Teatro Popolare, il laboratorio, quindi il Teatro Popolare ha il laboratorio e parallelamente la rassegna di cui poi ti parlo, si svolge al Paratodos. Il Paratodos è uno spazio sociale, culturale, politico, autogestito ed è abitato da diverse realtà. La forza di questo spazio, che è uno spazio molto accogliente, molto bello, uno spazio molto importante a Verona che fa la differenza, è che si intrecciano appunto queste realtà diverse in impegno sociale e politico, ma la sua forza sta nel meticciato, nella costante condivisione, nell'incontro, nella creatività di quello che avviene. Ed è un luogo che è limitrofo a una zona che è Veronetta, che è il quartiere multietnico di Verona, e tra l'altro si situa a Borgo Venezia, un quartiere di storia di proletariato, e quindi vicino alla stazione di Porta Vescovo, che è un crocevia, quindi anche connotato proprio a livello simbolico, e quindi da lì la sua forza anche di efficacia. Al Paratodos convivono, appunto, come ti dicevo, realtà differenti di impegno sociale. Abbiamo l'associazione Equilibrio Precario con il corso per i pizzaioli immigrati, non solo, ma anche per tutti coloro che vogliono trovare un lavoro, che lo stanno cercando. Abbiamo la Famiglia Maria Resistente, che penso sia una realtà unica e peculiare, e la Falegneria Resistente ci ha donato gratuitamente praticamente il palco dove appunto la nostra rassegna può prendere scena. Poi abbiamo lo sport come momento di aggregazione e condivisione con la Palestra Popolare, si tengono le assemblee di Non Una Di Meno, corsi di tango da quest'anno aperti a tutti, anche in un'ottica non stereotipata, quindi un luogo appunto di cultura, socialità, politica, musica, incontro, festa. Il nostro laboratorio, proprio il laboratorio di teatro, è condotto da Laura Pece, che è un'attrice, autrice, regista romana, che ha fondato nel 2010 i Teatri della Viscosa insieme a Stefano Greco. E Laura è una professionista, una donna che ha saputo e continua a creare un'alchimia di relazioni profonde, continua ad inventare ad ogni incontro e che appunto ad ogni incontro lo rende quasi una scoperta inventiva straordinaria. Abbiamo con lei intrapreso questo bellissimo viaggio. Lei l'anno scorso lo ha fatto gratuitamente, quindi si ha messo proprio a disposizione la sua competenza, la sua autorevolezza, ma soprattutto la sua empatia gratuitamente. Da quest'anno il laboratorio è aperto a tutti, ma è semi gratuito, nel senso che abbiamo pensato a una piccola offerta mensile per i suoi viaggi, lei viene da Trento, e per le spese appunto vive di questo di questo luogo che ci ospita, che è il Varatodos. Il teatro popolare, oltre a essere appunto attenzione, riflessione sul presente, politica, quindi trasformativa, è anche, visto che mi hai definito curatrice, è anche proprio un prendersi cura di questo spazio, dello spazio del Varatodos che ci ospita, ma anche dello spazio stesso, simbolico e fattivo del laboratorio, in cui ognuno quindi è coinvolto a partecipare in prima persona. E questo compromesso praticamente nasce anche nella presa in cura, nella presa in carico organizzativa, ma non solo organizzativa, perché qui si tratta anche di tenere rapporti costanti tra di noi, di intrecciare le fila con gli attori. Appunto nasce per il secondo anno consecutivo, grazie a questa forza, la rassegna popolare. Qual è il taglio di questa rassegna? Il taglio è sostanzialmente quello che è stato dato al laboratorio, quindi di riflettere sulle tematiche sociali. Proponiamo una rassegna che ha una qualità, arrivano attori professionisti, e questa rassegna è ad un'azione liberale e da noi è completamente autogestita, completamente da noi, quindi noi l'autofinanziamo sostanzialmente con le nostre possibilità. La rassegna quindi prevede questa entrata a donazione liberale, quindi a offerta libera, e il cappello finale per gli artisti sempre libero. La rassegna quest'anno intreccia non solo puramente teatro, ma anche poesia. Abbiamo un concerto l'8 marzo con Ardesia, che è un gruppo, una vocalista e la chitarrista e la violinista femminista, che intreccia canzoni di poetica e filosofia appunto femminista, in una ricerca filosofica applicata alla musica, e non a caso cade l'8 marzo questo evento. Sono appunto, come ti dicevo, tematiche attuali che non sono facili da proporre, quindi il filo rosso che lega tutti questi incontri che proponiamo è l'attenzione politica verso ciò che sta accadendo. Aperto a tutti, quindi si apre alla collettività, a Borgo Venezia il Varatodos si apre alla cittadinanza, e abbiamo visto anche l'anno scorso una grandissima partecipazione ad ogni spettacolo, anche diversa, cioè nel senso che sono venute persone diverse ogni volta, quindi era una continua nuova relazione che si creava, che si intrecciava. E prima e dopo ogni spettacolo si può appunto usufruire del bar, che apre alle 7, e c'è la possibilità di degustare le pizze preparate appunto dai pizzaioli dell'associazione Equilibrio Precario. La rassegna inizia il 19 di gennaio e dura fino al 24 di maggio. Nel 24 di maggio si conclude con la nostra restituzione poetica, emozionale, chiamiamola così, per un pubblico astante nostra, quindi del Laboratorio di Teatro Popolare. Il 19 maggio appunto apre alle 21 con Luce Bianca, che è uno spettacolo ispirato al romanzo Cecità di Saramago, con Silvia Mariniello e la regia di Vania Castelfranchi, ed è un gruppo romano quello che apre le danze. In conclusione, riassumendo, quanti appuntamenti, con che cadenza? Allora, gli appuntamenti sono, diciamo, una volta al mese, tranne marzo, che sono tre, e abbiamo quindi il 19 gennaio Luce Bianca, poi il 16 febbraio c'è l'altro appuntamento con Discorso sul mito di Vittorio Pontinelli, l'8 marzo Ardesia, quindi spettacolo femminista cantato, il 21 marzo abbiamo uno spettacolo per i bambini, spettacolo di burattini per bambini. Il 29 c'è il campanile del lago di Resia, che è un racconto drammatico ironico sulle sorti del paese di Curon. Il 26 aprile Pace denunciata, c'è un cabaret di Irene Lamponi di Genova. Il 10 maggio Felicia, che è incentrato sulla figura della madre di Peppino Impastato. E poi chiudiamo noi appunto il 24 maggio con Passi, e poi c'è una grande festa di fine stagione. Tutte le informazioni le possiamo trovare sulla pagina Facebook Teatro Popolare di Verona, dove c'è il programma appunto dettagliato della rassegna, a cui appunto vi invito a partecipare. E allora ricordiamo la seconda rassegna di Teatro Popolare a Verona, al laboratorio autogestito Varatodos, dal 19 gennaio al 24 maggio 2020. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Sara Bigardi. Un abbraccio, grazie, in bocca al lupo, e a presto. Grazie, grazie mille, grazie dell'invito e di tutto. Grazie. Con con Monica Morini del Teatro dell'Orsa per parlare della rassegna show a Reggio Emilia, la Casa delle Storie, dal 25 novembre 2019 al 31 gennaio 2020. Monica, ben trovata. Ben trovati a voi tutti. Raccontiamo partendo dal luogo. La Casa delle Storie è un progetto che vive da un anno, ce ne parli? Certo, è stato un progetto cullato, desiderato, appassionatamente voluto, non solo dal Teatro dell'Orsa, ma è un progetto orizzontale, collettivo. Cioè abbiamo costruito da un vecchio magazzino, abbiamo costruito un teatro, l'abbiamo proprio fatto con le nostre mani, a partire dalle assi fino al ring teatrale, fino a tutto, alla cabina di regia, al luogo di accoglienza. La Casa delle Storie è un luogo pensato non solo per produrre, ma per accogliere storie, per salvare storie. Anzi, mentre lo costruivamo abbiamo chiesto a tutte le persone che hanno anche fisicamente aiutato a costruire la casa, vuol dire che eravamo insieme a giovani che negli anni, giovani meno giovani negli anni, hanno seguito il nostro percorso di lavoro, ma anche con i giovani rifugiati, con il laboratorio permanente, non solo a inchiodare assi, ma sotto quelle assi abbiamo nascosto le parole di carta che ci hanno inviato le persone in un metodo antico, analogico, parole che salvano bellezza per restare umani. E questo progetto delle parole da salvare è un progetto che dura da più di un anno, sono arrivate più di 100 lettere e ci sono parole come lentezza, come ascolto, come anche teatro è una parola da salvare. E questa casa è circondata, è una sorta di nido di storie. L'abbiamo fatto con un crowdfunding che è stato partecipato da più di 250 persone, raccogliendo veramente una bella cifra, più di 15.000 euro. E ha avuto il suo parto lo scorso anno a gennaio e ha cominciato a ospitare anche il pensiero dei maestri e delle maestre di teatro. Sono venuti a trovarci Vazis, Luigi D'Elia, sono venuti a trovarci testimoni anche del presente, della vita civile, Donato Ungaro, che è protagonista di uno degli spettacoli di Martinelli, perché è stato il vigile che è riuscito a sventare un po' di zame del processo a Emilia. È una persona che ha ricevuto diverse minacce, e anche noi quel giorno in cui l'abbiamo ospitato abbiamo ricevuto delle lettere intimidatorie. Quindi la Casa delle Storie nasce già un po' resistente di natura, ma non ci siamo spaventati, anzi doppiamente continueremo a ospitare persone che parlino anche di legalità e nel presente. Però ora continua un rito straordinario, lo avremo anche in questa stagione, il 18 di dicembre, che è il rito delle 100 voci, che è un rito molto collettivo, cioè a tutte le persone che si candidano, non solo agli artisti, ai cittadini e a persone di tutte le età. È molto democratico questo rito. Diamo 3 minuti di microfono aperto per salvare una parola, per restare umani. Ogni volta che apriamo il rito delle 100 voci c'è un focus. Il 18 di dicembre, per esempio, avremo il focus sul tema non solo della giornata del migrante, ma sul tema della casa, perché conosciamo moltissimi giovani ragazzi che hanno lavorato con noi in teatro, che continuano a lavorare, che sono già magari diplomati, che hanno un lavoro, ma che non tornano a casa, perché gli italiani non danno le case agli stranieri. Quindi che cos'è la casa oggi, come la viviamo, che cos'è la casa che ricordiamo, la casa che vorremmo avere, le case condivise, la casa che non c'è, che cos'è il concetto di luogo dove ci riconosciamo come identità. Quindi il 18 esploreremo questo, ma come ricordavi tu, la rassegna, che è all'interno di un progetto europeo, Shaping Fairy Cities, cioè un progetto che esplora l'agenda 2030, quindi che esplora i grandi nodi che dovremmo avere sotto gli occhi tutti i giorni, cioè superare i pregiudizi sulla differenza di genere, essere più inclusivi e avere attenzione al pianeta. Quindi nel primo appuntamento, che è il 25 e il 26 di novembre, lunedì e martedì, faremo lo spettacolo Nudi, le ombre della violenza sulle donne. Uno spettacolo che frantuma in molte parti il pregiudizio sulle donne e anche la violenza maschile sulle donne. E sono serate aperte a tutti, faremo anche delle mattinee per le scuole superiori ed è un momento davvero aperto alla città. Noi lasciamo che entrino le persone alla casa in modo in modo gratuito con un contributo responsabile, però è una partecipazione davvero democratica, arrivano ragazzi giovanissimi come arrivano le persone anziane del quartiere, siamo in un punto della città molto interessante, un vecchio quartiere che non è proprio alla periferia estrema, è sul bordo della città, vicino al fiume, vicino al grande cimitero monumentale, una strada stranissima di fronte agli orti urbani dove germoglia la vita e custodita dietro dal silenzio dei grandi marmi, e ci stanno anche personaggi illustri, c'è Romolo Valli, abbiamo dietro delle anime di artisti che suggeriscono forse strade possibili, è un luogo che è davvero da venire ad abitare ed è un luogo dove faremo anche azioni capillari, perché è un luogo pieno di botteghe, c'è ancora una persona che aggiusta le biciclette, una che aggiusta le scarpe, c'è un vecchio barbiere, c'è un forno, un centro sociale, sono tutte persone con cui siamo in connessione, quindi è il teatro che si apre davvero allo spazio fuori dal teatro e ci respira insieme. Dentro la casa delle storie avremo anche ospiti come Armando Punzo, Scabbia per il primo compleanno, quindi è sempre un modo per gli artisti in un luogo che è a pochi posti di creare un'intimità e un dialogo con gli artisti come non si creerebbe in un teatro a 200 posti, perché è uno spazio pubblico quello che abbiamo creato, ma nello stesso tempo è molto intimo, quindi anche gli artisti che lì si sono raccontati ci hanno detto cose che normalmente non si direbbero, perché è davvero come stare in casa. Nel complesso la rassegna prevede 6 spettacoli, se non sbaglio. Sì, ci sono gli appuntamenti che ho annunciato, ma la rassegna si aprirà oltre gennaio, da febbraio, marzo e aprile fino a maggio, saranno ospiti non solo Carrozzeria Orfeo il 30 di novembre, Punzo, Scabbia, noi ripresenteremo il nostro spettacolo che ha appena debuttato, Saluti dalla Terra, ci saranno le Ariette e ci sarà questo rito di preparazione a un evento che approderà il 10 maggio nella città di Reggio Emilia, sono le 100 sedie. E infatti il nostro cartellone è caratterizzato da queste sedie, la sedia è un elemento delle case che anche le persone che hanno migrato, che facevano San Martino, si portavano sulle spalle, non puoi mai rinunciare alla sedia, la sedia è il simbolo del narratore, la cadrega dei vecchi narratori che facevano filosse, ecco ci saranno 100 sedie disposte nello spazio delle Reggiane, disposte a spirale, come la spirale di Fibonacci, e davanti a ogni sedia ci sarà una sedia per un ascoltatore e i 100 narratori che andremo ad accumulare in laboratori aperti salveranno racconti, parole, musica e canti per restare umani. Questo è il progetto che stiamo facendo proprio in collaborazione anche con altri enti della città, con Remida, che è un luogo di riciclaggio straordinario, Reco, che è un luogo dove si salva la storia. È un processo che trova il cuore dentro la casa delle storie, perché è il luogo dei laboratori, degli ascolti, degli incontri con gli artisti, è il luogo degli spettacoli, è il luogo del nutrimento, ma è anche il luogo del bando giovani narratori, dove narratori da tutta Italia si vengono a formare a Reggio Emilia e poi trovano uno spazio performativo in questo momento pubblico che sarà il 10 maggio durante il Remida Day. Quindi la casa è una vera fucina, no? Sì. Prevederà anche proiezioni di film, Alessandro Scilettani con Alessandro Inuzzo presentano il loro film sulla famosa partita tra Pasolini e Bertolucci, è un episodio della storia, ma abbiamo sempre momenti in cui oltre allo spettacolo e il teatro c'è questo incontro che è molto anomalo, perché è vero che si fanno incontri con gli artisti dopo gli spettacoli, però è vero che è diverso essere 70 persone o ad esserne 300, la fluidità della parola è completamente diversa e noi abbiamo costruito questo spazio, certo è anche necessario, non avevamo i soldi per costruire un teatro, un teatro a 200 posti, la nostra possibilità arrivava a quello, però è anche vero che lo spazio adatto alla narrazione è un teatro che guardi negli occhi lo spettatore, che cuccia con lui un processo creativo che si fa nel momento stesso in cui lo spettacolo è in opera. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti per le informazioni? Certo, certo, io vi invito a vedere intanto il sito del Teatro dell'Orsa e poi anche il sito della Casa delle Storie. Poi invito tutte le persone, anche l'Agenda 2030 dell'Europa sembra una cosa lontana, però come artisti abbiamo in questo momento doppiamente il dovere di avere negli occhi che cosa è necessario fare per non solo sopravvivere, ma vivere insieme in un momento tanto fragile da molti punti di vista. E quindi Shaping Fairy City è un bel progetto, è da andare a vedere. Comunque, www.teatrodell'orsa.com e poi casadestorie.it, poi anche chiaramente su Facebook, sulla rete, su Instagram ci trovate e ci possiamo ripescare, anche se oltre alle reti virtuali bisogna trovare le reti in cui il gesto, il respiro e la voce si incarnano e ci si ritrova. Quindi il teatro è il luogo migliore. Venite a Reggio Emilia in via Beretti 24, Casa delle Storie. La rassegna show alla Casa delle Storie dal 25 novembre 2019 al 31 gennaio 2020. Un saluto e un ringraziamento a Monica Morini del Teatro dell'Orsa. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie. Ciao Monica. Ciao, ciao Federico, grazie a te. Siamo all'agenda della settimana teatrale romana, Simone Nebbia di Teatro e Critica, ciao Simone! Olè olè, buon pomeriggio a tutti! C'è un po' di così, andiamone un po' a vedere, ma cominciamo via da un teatro di cui si parla sempre molto poco, perché fa poche cose, in cui una volta andavamo di più, Federico, forse 10 anni fa, come da off, se non tutte le settimane, ogni paio di settimane ci andavamo. E invece adesso insomma è meno presente, però questa compagnia Sofia Mendolea, che se non sbaglio potrebbe prendere le mosse in realtà dall'Accademia Sofia Mendolea che c'è a Roma, è in scena come d'host dal 15 al 19 gennaio con Fattoria, Liberi di essere schiavi, che è scritto da Paolo Alessandri e liberamente ispirato all'Elmo Farm di George Orwell, che insomma è uno dei più rappresentati in Italia, soprattutto per le scuole, però questo sembra essere quantomeno un lavoro un po' più di valore, insomma, rispetto a quello che in genere si trova e che non è proprio il massimo. Allora, mentre invece lo spazio 18B, Manfredi Russo e Felice Corticchia presentano questo stasera Ve le canto io, ed è un lavoro dedicato anche alla musica, un monologo musicale brillante, dal 16 al 19 di gennaio, tra note di repertorio swing e jazz, con un occhio verso le varietà e alcune punte drammatiche, insomma, avremo anche delle tematiche particolarmente difficili, tematiche sociali, con alcune note ironiche, quindi insomma abbastanza completo questa stasera, Ve le canto io, 16-19 gennaio a spazio 18B. Poi andiamo all'Arcivuto, perché Maria Carolina Salomè è l'autrice di questo lavoro, che vede anche lei messa in scena insieme ad altri attori, e la supervisione artistica, chissà, forse, qui non viene segnalata la regia, no? C'è solo una supervisione artistica di Massimiliano Vado, che in genere potrebbe aver fatto una regia, una semiregia, chi lo sa, questo è un po' tutto da vedere. Comunque, il lavoro è una scusa, dal 15 al 26 gennaio se ne andrà in scena al Teatro Arcivuto. Tre amici che si conoscono da 30 anni e decidono di incontrarsi per fare musica. Però tra di loro chiaramente i rapporti sono un po' più ingarbugliati di quello che sembra, e quindi chissà che cosa succederà una volta che decidono di trovarsi e fare arte insieme, quali sono poi i rapporti, come evolveranno poi i rapporti di questi personaggi. Dunque, andiamo ancora un pochino avanti, Teatro Studio 1, collettivo Best Stand, con il secondo atto di Mare Anarchico, trilogia della nuda vita. Dal 16 al 19 gennaio questo De Siderale viene presentato precisamente alla regia di Giuseppe Maria Martino, ed è appunto un lavoro dedicato a una storia. Nel febbraio 2017 un giovane friulano, Giuseppe, scusate, Michele, si uccide a 30 anni, lascia una lettera, atto di accusa contro una realtà sbagliata da cui non si può pretendere niente. Questo suicidio, che viene rivendicato come un atto di libertà, quindi un atto politico, è l'atto di accusa di una generazione nei confronti del mondo così come è diventato. Questo è l'inizio del discorso, della discussione che in questo caso appunto la compagnia Mare Anarchico porta nella discussione in scena dal 16 al 19 gennaio, Teatro Studio 1, e sembra piuttosto interessante, detta la storia da cui parte è molto importante e è molto importante conoscerla bene e poterla poi affrontare. Mentre al Teatro Vascello è già in scena un po' da qualche giorno, ma fino al 19 gennaio, La Tempesta di Shakespeare con la regia di Umberto Andò e in scena Renato Carpentieri sarà lo spettacolo, insomma, che uno dei spettacoli più importanti della stagione del Vascello, a quanto appare, è il capolavoro shakespeariano, che è un omaggio al teatro a tutti gli effetti, l'opera della rigenerazione che contiene l'idea. Questo è all'interno della Tempesta, l'uomo è destinato a convivere con la tempesta e a fare chiarezza dentro di sé a proposito di sé dopo ogni tempesta. Questo è il lavoro firmato da Roberto Andò con molti spunti visionari e l'eccellente cast, insomma, in cui spicca Renato Carpentieri, ma non solo, abbiamo Paolo Briguglia, Vincenzo Pierrotta, e abbiamo anche Francesco Villano, insomma, una produzione del Teatro Biondo di Palermo abbastanza solida, e che ha nel ruolo di Miranda Giulia Andò, che ha anche lei questo passato remoto come cognome, curiosamente, della stessa entità del regista. Quindi, fino al 19 gennaio, La Tempesta di Shakespeare al Teatro Vascello. Invece a Brancaccio ci andiamo, se proprio ci va di andarci, cioè che dobbiamo andare per forza, però dal 15 gennaio, perché andiamo a vedere questo lavoro, sempre diretto da Giorgio Gaglione, ma con Neri Martorell, Ugo Righiero e Rosanna Nazzeo, cioè Tango del calcio di rigore. E si tratta di un lavoro che parte dalla finale dei mondiali del 78, 25 giugno, all'Estadio Monumentale di quello paese. L'Argentina deve vincere a tutti i costi contro l'Olanda. Seduto in tribuna c'è il generale Jorge Videla, che ha orchestrato il mondiale come strumento di propaganda politica affinché il mondo si dimentichi delle madri di Plata de Mayo. Questo è il punto da cui parte uno spettacolo abbastanza curioso, appunto, vista la location, il Brancaccio, che magari meno si occupa di temi sociali, di temi storici così particolari, però il Tango del calcio di rigore, con appunto Neri Marcone, anche lui non propriamente ammesso alla denuncia sociale, nonostante insomma sia un attore di grande livello e anche molto impegnato, però ecco, in teatro abbiamo visto attraversare un altro tipo di racconto, questa volta si misura con la propaganda politica e con un grande momento storico come l'eccidio della dittatura argentina degli anni 70 e appunto Plaza de Mayo, poi appunto c'è un legame con la loggia P2, Licio Gelli, che era appunto anch'esso in tribuna quel giorno, molto amico del generale Videla, insomma, comunque bella frequentazione, ecco, per entrambi. Tutto questo appunto dal 15 al 19 gennaio al Teatro Brancaccio, per questo lavoro che parte dal calcio, ma per parlare di storia ancora qualcosa, sì, perché lo Spazio Diamante, Enrico Maria Carraro Moda, quindi due nomi e due cognomi, comodi, scrive, dirige e interpreta, supervisiona tutto il resto, questo Il Vampa, insieme anche a Larissa Cicetti, credo di aver letto bene, Larissa Cicetti, che la compagnia Inani Inani presenta appunto il 15 gennaio allo Spazio Diamante questo lavoro dedicato a quella vicenda che un po' tutti quanti conoscono, cioè quella banalmente del mostro di Firenze, no? I fatti tragici accaduti nella zona attorno a Firenze dal 51 all'86. Quel rapporto sempre molto informe, deforme e non perfettamente chiaro ancora oggi tra tutti coloro che poi sono stati coinvolti nella vicenda, Piero Tacciani, tutta la sua vicenda processuale, ma anche insomma i suoi fantomatici compagni di merende di cui molto si è parlato. 15 gennaio, Spazio Diamante per Il Vampa di Enrico Maria Carraro Moda. Ancora, sempre Spazio Diamante, perché il 17 gennaio, per la sezione invece danza, lo spettacolo Body Things con compagnia Collettivo Trasversale, la coreografia di Massia, forse del prete, scritto Macia, ma insomma, presuppongo si tratti di Massia, del prete, che porta questo lavoro sul soggetto assume intenti significati nuovi, talvolta anche opposti. Quindi dalla forma alla trasfigurazione del corpo, questo Body Things, il 17 gennaio, lo spazio diamante con il collettivo Trasversale. Che altro dirci? Sì, sicuramente che torna al Teatro Argentina un nemico del popolo, di Harry Kinsen, con la regia di Massimo Popolizio, la regia al Teatro Argentina dal 17 al 26 di gennaio, ed è il lavoro che va a raccontare la vicenda del dottor Stockman, quello straordinario viaggio etico-politico creato da Ibsen per questo dilemma morale che divide due fratelli in lotta politica tra di loro e che insomma molto molto è stato applaudito già lo scorso anno, arrivando a vincere anche il premio Hugo questo spettacolo, e che è ambientato nella contea, una contea americana degli anni 20 immaginaria, e insomma non nel tempo in realtà di Ibsen, ma nel tempo nello spazio di Ibsen, ma immaginando un altro tempo e un altro spazio. Dal 17 al 26 gennaio, Un nemico del popolo di Ibsen, regia di Massimo Popolizio, al Teatro Argentina. E Torre Brunette Teatro per i più piccoli, domenica prossima, 19 gennaio, provaci ancora a Bretella, io con Pietro Ricciardi, alle ore 16.30, ricordiamo che la domenica sempre, Teatro Centrale Brunette, porta un lavoro domenicale nel pomeriggio per i più piccoli. Che lavori ha fatto un clown prima di scoprire di avere un talento comico? Questo c'è un po' dietro la storia del clown Bretella che ricerca un lavoro e non si dà mai per vinto. Quindi ci troviamo l'estero, domenica 19 gennaio, per questo lavoro. Allora, andiamo anche al Teatro Basilica, perché no, il vecchio Sala 1, che vede in scena il primo frammento di Elena da Yannis Rintzos, la residenza che ha avuto come protagonista Monica Conti, e in scena Elena Arvigo, viene presentato il 17 di gennaio, appunto con in quanto prova aperta e ragionamenti attorno ai processi di ricerca e composizione delle opere, che è molto interessante. In realtà anche lo spazio del Teatro Basilica, porti finalmente in questa Roma che di processi di creazione poco si occupa rispetto agli altri contesti nazionali. Una donna senza età, vecchia e bambina, mitica e contemporanea, parla a un soldato venuto a trovare. Un soldato che ha combattuto per lei, Elena, con il suo volto bellissimo inciso più oscuro, che si è dato tanta pena per combattere appunto in suo nome. Elena è appunto un personaggio storico dell'etica classica, quindi Yannis Rintzos è andato a riscoprire un personaggio scrivendone la storia, che noi il 17 gennaio lo andremo a vedere al Teatro Basilica. Cosa mi manca da dirvi? Allora, da dirvi, Manuela Cherubini, Barney Play Project, Mary and Me, 19 gennaio, domenica alle ore 18, per un progetto in fieri che parte dalla commedia God Such the Summit, meeting della scrittrice egiziana Nawal al-Sadawi, e una commedia bruciata finché il libro non esista più. Barney Play è questo percorso per arrivare alla creazione di uno spettacolo sulla commedia che non si può rappresentare. Manuela Cherubini fa questo viaggio all'interno di questa opera, non opera, opera scritta e non più conosciuta in realtà, per riflettere proprio sul senso dell'arte, sul senso della rappresentazione, soprattutto sulla possibilità di conservazione di uno spettacolo impossibile. E 19 gennaio alle 18 lo andremo a vedere tutti insieme per Band Play Project Mary and Me, Manuela Cherubini alle Carrozzerie Not. Attenzione, per quanto riguarda invece il Teatro Eliseo, è già iniziato, lo sai, c'era il 19 gennaio la Scuola delle Mogli di Molière con Arturo Cirillo, che va a riprendere uno degli ultimi testi di Molière, dove la gioia e il dolore della vita, il teatro comico e quello tragico, come appunto il Shakespeare. Piccolo mondo di pochi personaggi, ed è una commedia di invece sorprendente maturità e modernità, appunto, che Molière raggiunge negli ultimi anni. C'è una città ideale, una piazza, una prospettiva, una geometria, scelta una casa girevole e una camera che è anche una cella, una stanza delle torture. Quindi grande contrasto per questa commedia un po' plaudina, ci dice Arturo Cirillo, che nasconde uno dei tempi più moderni contraddittori di inquiri sul desiderio e sull'amore. La Scuola delle Mogli, fino al 19 gennaio, Teatro Liseo. Stesso teatro, ma un po' più di fianco, piccolo, Eliseo Ferrazzero, Massimiliano Bruno con la regia di Furio Andreotti, fino al 19 gennaio, porta questi cinque ragazzini che trascorrono una vacanza insieme. I loro sogni si scontrano con la realtà di una brutta storia di sangue che li coinvolge in prima persona e li segnerà per tutta la vita. Questo, appunto, nel 1982 è ambientata la vicenda che rievoca la storia di questi cinque ragazzini, sarà in scena appunto al Piccolo Eliseo fino al 19 gennaio. Ultimo appuntamento di cui parlare, perché no, Teatro India, West End, Kate Tempest, Georgina P. Blue Motion presenta questo lavoro dal 14 al 26 gennaio, appunto la regia di Georgina P., ma sono tre gli attori scenici: Silvia De Santi, Gabriele Portoghese e Petucci, non so bene come si pronunci, non ho mai visto scritto questo nome in questo modo. Si tratta di un testo di tutta questa rapper, live performer, poetessa, scrittrice, Kate Tempest, che racconta un pezzo di società cresciuta pensando che cambiare la propria condizione iniziale fosse impossibile. Una serie di personaggi, figli di una working class che si immagina destinata a rimanere tale, muoiono al mondo, ogni giorno. Come si può rimanere se stessi se non c'è mai stata data la possibilità di esserlo? Questa è la domanda di Kate Tempest. Si muore perché altri possano nascere, si invecchia perché altri possano essere giovani. Il senso della vita è vivere, amare se si può e poi tramandare. Con queste parole andiamo a salutare questo spettacolo dal 14 al 26 gennaio a Teatro India e questo è veramente tutto. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.